cosa è male, forse non l'ho mai capito. Il concetto non mi è chiaro, adesso vivo come vivo. Fanculo sto mondo, com'è che trovo solo basti. Ma ho prenotato un posto nella clinica dei pazzi. Ho una stanza al manicomio, marco il territorio. Cammino su una strada affilata come un rasoio. Il funk repertorio, Ashi is my life. Tempo con le rime, tu fottuti terabyte. MC da ricovero, abbatto il blocco psicologico. Io caso patologico, Yulo man, sfatto cronico. La colica d'alcolica, barista, prego il solito. Ora il culo ben parato per un atterraggio morbido. Un passo dalla foglia pure, non trovo una cura. Carponi l'andatura, sangue come stadio l'armatura. E sono fermo a un punto morto, così come vedi. Bloccata la mia mente, inchiodati i miei pensieri. Ritivo, scrivo, parlo dei miei passi. Non prenotato un posto nella clinica dei pazzi. In mezzo negli scazzi, la mia pazienza è morta. Ombre, benvenuto nella mia realtà distorta. Vivo primitivo, scrivo, parlo dei miei basti. Non prenotato un posto nella clinica dei pazzi. In mezzo negli scazzi, la mia pazienza è morta. Ombre, benvenuto nella mia realtà distorta. Anche se la situazione easy, grava come pesi. Nella testa c'ho zavorre di pasti da mesi. Per chi cazzo ci hai presi? Adolescenti in piena crisi. Hai cannato in pieno amico, quella clinica dei crazy. Stesi a terra, offesi da un mondo di merda. Tenetevi la chiesa, noi preghiamo nella serra. Se la realtà è quella, con ogni giorno vediamo. Sentiamoci prima di tutto da chiedersi come cazzo stiamo. E ti diranno bene, grazie. Gli stessi con ogni giorno, la mattina, la merda, bevo una tazza. O quelle pazze, zoccole griffate che fanno le raffinate. Tanto rimarrete delle zozze. Io qua ci sclero, due fumi che son preda della tosse. Sono l'unico che sveglio questa notte. Mi prendo botte di coscienza dalla vita, dei polmoni e delle vostre opinioni. Nulla mi fotte. Vivo primitivo, scrivo, parlo dei miei basti. Non prenotato un posto nella clinica dei pazzi. In mezzo negli scazzi, la mia pazienza è morta. Ombre, benvenuto nella mia realtà distorta. Vivo primitivo, scrivo, parlo dei miei basti. Non prenotato un posto nella clinica dei pazzi. In mezzo negli scazzi, la mia pazienza è morta. Ombre, benvenuto nella mia realtà distorta. Sono a schiera di psicologi che plagiano subito la mente. Creano gabbie nel sistema critico con microspie piazzate direttamente dentro alla nostra mente, una pratica costante. L'unico obiettivo è quello di tenerti buono e consenziente. Consumatore perfetto, elettore distratto, marito traditore, semplicemente matto. Tifoso violento, ogni forma di intrattenimento è un modo per tenerti dentro a questo ingranaggio. Ad ogni forma di libero arbitrio che è un oltraggio, contaminato dall'informazione, circondato, bombardato dalla arma del futuro qui adesso. E per focalizzare l'attenzione su ciò che sei, ciò che invece ti hanno detto. Attenzione, signor distratto. Vivo primitivo, scrivo, parlo dei miei basti. Non prenotato un posto nella clinica dei pazzi. In mezzo negli scazzi, la mia pazienza è morta. Ombre, benvenuto nella mia realtà distorta. Vivo primitivo, scrivo, parlo dei miei basti. Non prenotato un posto nella clinica dei pazzi. In mezzo negli scazzi, la mia pazienza è morta. Ombre, benvenuto nella mia realtà distorta. Yo, JJJ, Yulo Man, Leon, Carugi Uniti 2008. E ce n'è d'avanzo. Peace.